140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Manin, Milano. Criminalità, politica, appalti, insomma mafia capitale in Suburra, scritto ben prima dei fatti di cronaca e diretto da Stefano Sollima. Trovo che sia fondamentale osservare la realtà e anche trovare il modo per renderla cinematograficamente interessante. E la realtà che raccontiamo in Suburra fa parte della nostra città, è un meccanismo che esiste da sempre, come suggerisce il titolo, per cui in realtà parzialmente era sotto gli occhi di tutti. Però devo dire che certe scene del film assomigliano drammaticamente ad alcune scene che abbiamo visto nei telegiornali quest'estate. Quando tu vedevi queste scene nei telegiornali, che cosa hai pensato? Gridavo allo spoiler, dicevo non ci credo, da film profetico a instant movie. Non ho trovato neanche una grande attinenza, ti devo dire la verità, tra il nostro racconto cinematografico e l'indagine e gli atti di Mafia Capitale. Ma perché ovviamente noi, avendo iniziato a lavorare al progetto 2 anni e mezzo fa, quindi in un contesto anche politico completamente diverso, mi sembrava bello raccontare una città e dei meccanismi che ne regolano il funzionamento, ovviamente traslato in chiave di genere, di film di intrattenimento noir, quindi dandogli, come dire, andando a cercare uno sguardo nero sulla città. Però non ho trovato in Mafia Capitale dei veri punti di contatto col film, perché il film di Suburra è più un film sui meccanismi. Mentre invece tutto quello che noi abbiamo avuto da Mafia Capitale sono dei fatti molto precisi, molto circostanziati. Suburra è un film sui meccanismi che possono portare a quei fatti. E per questo ancora più drammatico. Ma anche più attuale, cioè era probabilmente attuale 10 anni fa e potrebbe anche esserlo fra 10 anni. Perché mi sei venuto a cercare? Per darti la mano. La Befana ti porterà sul conto della fondazione un paio di milioni di euro. In cambio mi serve la legge sulle periferie. Non siamo qua, che succede? O si diventa come Las Vegas. Tu devi fare solo la tua parte, il resto ci penso io. Sei stato tu? È stata Roma. Non c'è neanche un personaggio positivo. Nel libro c'era qualcosa, c'erano le indagini, tu hai deciso di concentrarti sull'aspetto dei personaggi e delle negativi, insomma. Ma non sono neanche tutti personaggi negativi, è un film corale e trovo che rispetto al romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, il cui protagonista era un carabiniere che quindi ci portava attraverso differenti mondi seguendo un'indagine, ovviamente ci avrebbe anche semplificato il lavoro di trasposizione cinematografica, però ritengo sempre più interessante partire dai personaggi e dai mondi senza esprimere un giudizio morale, quindi bene o male racconti degli esseri umani, e mi sembrava più interessante farlo attraverso i personaggi, ciascuno di questi rappresentativo di un mondo, e tutti questi mondi insieme creano, interagiscono e formano la Suburra. Mi hanno fatto subito pensare ai sindaci del Napoletano che hanno gridato allo scandalo per le riprese, per le storie di Gomorra. Devo dire che vengono fuori bene a confronto a quanto viene fuori la politica italiana e la città di Roma come esempio di un certo modo di gestire il potere italiano. Io penso ci sia una fortissima dose di ipocrisia poi in questo, no? Noi È come se avessimo una sorta di pudore ad autorappresentarci, soprattutto nei nostri difetti o nei nostri lati deboli. È come se pretendessimo poi dalla rappresentazione cinematografica o quella della televisiva sempre la messa in scena, la rappresentazione del meglio di noi, che invece è una cosa che secondo me dovremmo avere e ottenere nella nostra vita quotidiana all'interno di una società civile. L'intrattenimento, perché poi di questo si tratta, mi sembra anche più interessante, più affascinante. Nel caso mio specifico, io amo i gangster movie. Il gangster movie, per definizione, parla dei cattivi, non parla dei buoni. A proposito di gangster movie, ti senti il peso, la responsabilità, ma anche forse la soddisfazione di leggere che sei il regista che ha riportato il film di genere come creatura con dignità cinematografica al cinema? Sono molto orgoglioso. Il lavoro fatto in questi anni mi riporta al grande cinema italiano che facevamo negli anni 70-80, in cui anche grazie al genere riusciamo a esportare la nostra cinematografia, e spesso anche con un racconto dell'epoca, quindi non soltanto il genere per il genere, quindi intrattenimento per intrattenimento, ma anche una forma di intrattenimento intelligente. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Stefano Sollima. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.